Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti, regia del Bolognese Volante. Eccoci qua anche questa domenica per una nuova puntata di Easy Pop insieme a Franco Paoletti, che vi sta parlando e vi dà il buongiorno, ben sintonizzati sui 103 e 100 modulazione di frequenza, e al di là del vetro ovviamente anche quest'oggi c'è come sempre il nostro Bolognese Volante. Buona domenica, una bella domenica calda questa, Paoletti, non scherza mica. Ma noi ci pensiamo a rinfrescarvi con tanta buona musica e tanta musica fresca. E allora vediamo che cosa ci sarà, quali sorprese c'è sul piatto numero 1 e poi sul quello numero 2. Playlist di oggi, puntata numero 27 di domenica 9 luglio 2023. Andiamo ad aprire la nostra puntata con un nome che ben conosciamo, un autore raffinato che ci piace molto, è un cantautore, produttore musicale, già premio Fabrizio De André alla canzone d'autore nel 2014, ma poi insomma ha lavorato con tanti quali Diodato, Manarino, Brunori, Eric Camus, Mario Venuti e chi più ne ha più ne metta. Stiamo parlando di Domenico Imparato, che ci presenta il suo ultimo singolo che si intitola Santiago. Siamo tra la terra e questo cielo, d'azzurro rimaniamo inquieti alla deriva, col vento contro il sole che ci abbronza la fronte, piccole imbarcazioni perdute tra le onde, viaggiando in questo mare che a volte ci tradisce. Parliamo con le stelle delle avventure nostre, chitarre da abbracciare come femmine stupende. Tra i sogni che farò, Santiago ci protegge. Dimmi qual è il tuo nome, fratello, siedi pure, raccontami il tuo viaggio, cos'è questo stupore? La stiva è quasi vuota, ma sai ci può bastare, c'è dentro un sacro poco, nel lento navigare. Ridiamo di piacere, cantiamo a squarciagola, che anche senza provviste, noi ci salviamo ancora, in questo oceano scaltro, pieno di pesci e cani. La schiena dritta è un vanto che devi onorare. Gran pesca si farà, pigliamo il pesce d'oro, lo catturiamo e poi noi cantiamo in coro. Ognuno chissà dove, ad ogni luna nera, scriviamo una canzone, tempesta e chimera. Dimmi qual è il tuo nome, fratello, siedi pure, raccontami il tuo viaggio, cos'è questo stupore? La stiva è quasi vuota, ma sai ci può bastare, c'è dentro un sacro poco, nel lento navigare. Scoprire in fondo al nostro mare, coralli e pesci verdi, accendi le lampare, c'è un mondo da scoprire per chi si vuole. Domenico Imparato e il suo nuovo singolo Santiago, di cui adesso Paoletti ci parlerà. Beh no, vi ho già parlato appunto di Imparato, che praticamente ha fatto uscire da poco il suo nuovo album. Questo è il singolo insomma dell'estate 2023, Santiago, ma devo dire che tutto l'album è molto molto bello, molto gioioso e quindi da ascoltare. E appunto, da un cantautore che già ben conosciamo, passiamo a una cantautrice che abbiamo conosciuto 4 anni fa, poi un silenzio che viene quest'anno con un nuovo singolo in collaborazione con Pioggia Rossa Dischi, e il suo nuovo contratto discografico in attesa dell'album. Ci ascoltiamo Alice Caron, ci presenta Due. Le sono fatte per guardarti, le mani per coprirti, coperte sempre troppo corte, che poi freddo i piedi, adesso tu ti siedi, non ti lascio più. Te lo giuro mai più. Le notti sono fatte per girarti, gli abbracci per scaldarti. Ecco le quattro di notte, ma chi dorme io ti bacio 10 volte. E poi una in più. Ancora precari con te, fare tutte quelle cose che si fanno in due. Fa così male la mia casa vuota senza il tuo odore. Il cielo sembra fatto per distrarti, l'aria per respirarti, la terra che trattiene i nostri passi, così poi non mi scappi. Me ne vado più. Te lo giuro mai più. Mi devo ancora ubriacare con te, fare tutte quelle cose che si fanno in due. Per noi. E dammi pure 4 pugni in testa che non basta mai. Io lo so, non do certezze, non ti basto mai. Ma dammi pure 4 schiaffi. Alice Caronna col suo 2. Stavamo disquisendo qui con Paoletti sul preskit non proprio chiarissimo, ma l'abbiamo esaminato meglio e abbiamo appurato che il nome del singolo è 2. In effetti io stavo attento nell'ascoltarlo se appunto diceva 2 o meno, quindi dopo questa disquisizione voglio ricordarvi che è tornata con un nuovo album, quindi è il secondo per quanto la riguarda, si intitola Le Bon Heur, il suo album dal quale viene estratto il singolo appunto, che ci parla di varie sfaccettature dell'amore, e bentornata una voce importante per appunto Alice Caronna. E da una cantautrice molto raffinata andiamo ad ascoltarci invece Subaru, che ci presenta Apri gli occhi. Bella le mandala che mi fanno col beat. Incredibile quanto diventi prevedibile se non guardi l'individuo, ma la situazione, il singolo è spesso solo un sintomo, il riposo per l'impasto, la pressione al carbone. Anni dopo sabbie mobili, siamo ancora qui, patti validi quanto titoli nobili, apri lì, ti circondi di NPC, fino al venerdì, sabato sera in baleniera Moby Dick. La trachea che diepeta a metà della città, la società romanticizza l'instabilità, le apri e non ascolto ciò che dici, dei tuoi sacrifici, chiudi e torniamo tutti un po' più amici. Li apri e il cash non è uguale, al tempo è diverso dal fine, ma più o meno il mezzo li chiudi e ignori il valore, il prezzo lo stivale, fermo e ragione all'inverso. Apro gli occhi e speravo te ne andassi meno presto, e sarà di porcellana ma per me resta un cesso. Apri gli occhi, tutto a un costo, c'è un problema in corso, e se tranquillo chiudi gli occhi e torna tutto a posto. Aprili se vuoi la verità, ma evita vuoi la tua realtà, chiudili medita, chiudi se paura, aperti se leggi i miei carmi, aprili quando è dura e chiudili sì prima di baciarmi. Apri gli occhi se vuoi, chiudi gli occhi se vuoi, che tanto il ritmo bello che ci disco fan dancing tipo a versi, se credi ce ne sia bisogno, apri gli occhi vedi questo non è un sogno, che tanto il ritmo bello che ci disco fan dancing tipo a versi, chiudi gli occhi se credi ce ne sia bisogno, apri gli occhi vedi questo non è un sogno. Nei bassi fondi le dredonnine coi vestiti bucati, i piani alti stessa cosa ma firmati senza venda sull'occhio, ma fanno tutti pirate, scegli da che forte stare qui tra strutti e suricati. Quando dormo lascio il terzo occhio aperto, ma io stesso poi li chiudo se non reggo. Chiudi lì se non vuoi sentire come stai, ma non vedrai bello del mondo se poi non li apri mai. Tieni tienili chiusi se vuoi sentire il rancore. Per il perdono aprili che serve compassione. Prendo lì, vedo spesso il femminismo e misandria. Ma ora non voglio pensarci, dai versa questa sanguina. Occhi chiusi, giudichi dalla copertina. Aprili social, centri commerciali, ogni profilo una vetrina. Ora basta paragonarsi agli altri. Alga e tramonto sono opposti, ma senza nulla da invidiarsi. Apri gli occhi se puoi. Subaru, apri gli occhi. Beh, Paoletti, io ho cercato di seguire il testo, ma è tanta roba, dice tante cose questo signore qua, Sì, non gli si sta dietro in quanto è un rapper, è come tale, insomma, ti spara tantissime cose. Io però di Subaru ricordavo il nome di una macchina, non certo un rapper, perché lui si chiama in realtà Lorenzo Scilitani, è un rapper, anno di nascita 2000, è cresciuto a San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia, anche se poi ha bazzicato nel mondo underground hip hop torinese, dove appunto ha cominciato a scrivere canzoni e così a leggere e declamare poesie. Complimenti, insomma, c'è tanto, questi giovani poi fanno veramente tante cose. Sì, sono molto bravi. Adesso che cosa ci propone invece la trasmissione che ha elaborato Paoletti? Io elaboro sempre tante cose, del resto gli ingredienti sono tanti per fare un bel minestrone, un bel purpurri di musica italiana. Beh, parliamo di un grande della musica italiana, sto parlando di Garbo, che ritorna appunto alla musica con un album molto interessante. È ritornato, però ritornerà in questi giorni anche con i Diaframma in una puntata, anzi in una tappa unica davvero interessante, ne sta parlando un po' tutta la stampa. Vabbè, io mi fermo qui. Comunque Garbo ci presenta quello che è il suo ultimo singolo, si intitola Come Pietre. La gente pesa poco niente dentro le città, c'è tanta polvere che occupa la vita, che riempie i tuoi pensieri fatti di miraggi, bruciano e cenere. Vorrei cantare le parole con un senso nuovo qui, ma nel vuoto non c'è un suono, non c'è aria libera. E le parole erano pietre, oggi di vapore. Guarda quanto niente avvolge anche la mente. Rubiamo un'età, togliamo polvere che copre ogni idea, che soffoca la vita silenziosa, è solo un grido infinito. Vorrei cantare le parole con un senso nuovo qui, ma nel vuoto non c'è un suono, non c'è aria libera. E le parole. Ma le parole sono veramente come pietre, Paoletti. È un vecchio detto, ma sempre buono. Ricordo a tutti coloro che ci stanno ascoltando che state appunto all'ascolto di Easy Pop su Radio Città Fujiko 103.10 di Bologna in FM, e questa è la puntata numero 27 di domenica 9 luglio. Che fa? Mi copia? L'ho già detto io. Comunque siamo sempre nella prima mezz'ora e abbiamo ascoltato veramente tanta buona musica per quanto riguarda Garbo, ancora una volta un album di grande spessore che affronta tematiche così esistenziali e non solo, non facili appunto da indagare. Garbo dice: andiamo verso delle nuove rivoluzioni, quella informatica o dell'intelligenza artificiale, dobbiamo essere in grado di guidare questa rivoluzione, perché se no saremmo ovviamente inghiottiti dalle macchine. Questo progetto è in condivisione da insieme a Luca Urbani e Eugene, per esempio, che hanno dato smalto a questo nuovo lavoro, tra l'altro anche così come dire mediato e anche prodotto da Roberto Colombo, che già ha collaborato nei primissimi albori di Garbo e i suoi primi due album, che sono delle pietre miliari nella musica pop nostra italiana, appunto portavano questa firma. Detto ciò, regia, velocemente andiamo con la prossima. Ad appannaggio di Namida ci presenta Cristalli. Scappati di casa quel concerto punk, tu con la luna storta io rotto le Vans. Sto posto è per gente elegante e noi siamo il male. E tua mamma non sa che sono pessima, lei mi crede l'amica d'acquatonica, ma che poi dorme in stazione, che pasto mi ha il sole, l'inferno nel cuore. E se ti va a parla, mi di cosa provi davvero. Lo so che a volte sputo veleno, ma sai che mi spaventi e mostro i denti. Vado fuori di me, fuori di testa, è come se avessi un poco che mi pesta le ossa. Quando ci pensiamo come fossimo fatti, non sono i tuoi occhi ma sono cristalli. Vado fuori di testa, la sabbia va a fuoco, baciami sotto cassa. Quando ci pensiamo come fossimo pazzi, non sono i miei occhi ma sono cristalli. Salto la maturità, è che mi piace fare il cinema. Io con il trucco che cola per strada da sola, che scappo dalla verità. Ma passerà, parla, dimmi cosa provi davvero. Vado fuori di me, fuori di testa, è come se avessi un poco che mi pesta le ossa. Quando ci pensiamo come fossimo fatti, non sono i tuoi occhi ma sono cristalli. Vado fuori di testa, la sabbia va a fuoco, baciami sotto cassa. Quando ci pensiamo come fossimo pazzi, non sono i miei occhi ma sono cristalli. Ci siamo presi e poi persi, siamo perfetti ma a pezzi. E ci guardiamo male, ma in fondo un po' ci piace. Vado fuori di me, fuori di testa, è come se avessi un poco che mi pesta le ossa. Quando ci pensiamo come fossimo fatti. Travolgente, molto estivo questo brano che ci viene proposto da Namida, di cui adesso Paoletti ci parlerà. È anche una bella voce, dobbiamo dirlo, è una voce che ipnotizza un po'. Claudia Pregnolato, si chiama così Namida, viene da Torino, classe 2000, è una cantautrice punk rock dal sapore però internazionale, infatti il sound era proprio europeo, ci è piaciuto molto. Tra l'altro lei è praticamente bazzica nel mondo musicale oramai da qualche anno, tant'è vero che l'abbiamo vista per esempio a The Voice of Italy tra le finaliste, e poi l'abbiamo vista in diverse altre manifestazioni, non dimenticando il festival di Castrocaro, che insomma le ha dato una certa visibilità, e da lì in poi insomma lei sta cercando il suo singolo, quello del grande successo, quello del botto per così dire, però nel frattempo insomma la sua voce calda e potente arriva anche con questo nuovo singolo che abbiamo voluto così irradiare per voi. Tra l'altro l'abbiamo vista anche a DJ on stage a Riccione proprio un anno fa, chissà che non la vedremo alla Notte Rosa insomma. Vabbè, detto ciò, regia. Ah, c'è la preschitta, Alessandro Spina, lo annuncio. Allora andiamo avanti così con Alessandro Spina, ci presenta invece Meccanismi Virtuali, ascoltiamolo e poi vi parlerò di lui. Problemi esistenziali sono sempre da affrontare, planetari, responsi che vorresti. Attenta a cosa cerchi, meccanismi virtuali. Un tasto ancora lì tra le tue mani, meccanismi virtuali. siamo vittime sociali. L'invito di una sera, non pensi che una vela di clovierà, ritagliarsi un paradiso, ritrovare quel sorriso. Meccanismi virtuali, un tasto ancora lì tra le tue mani. Meccanismi virtuali, siamo vittime sociali. Meccanismi virtuali, un tasto ancora lì tra le tue mani. Meccanismi virtuali, siamo vittime epocali. Illuminati penso, risolvi quel che c'è del tuo tormento. Laddove spira il vento, la sorte di un evento. Meccanismi virtuali, un tasto ancora lì tra le tue mani. Meccanismi virtuali, siamo vittime sociali. Meccanismi virtuali, un tasto ancora lì tra le tue mani. Meccanismi virtuali. Alessandro Spina e i suoi meccanismi virtuali in questa calda domenica di domenica 9 luglio, e la prossima settimana prevedono delle temperature estreme. Paoletti, lei cosa farà? Ma io lavorerò, credo, in attesa di andare poi così in vacanza, e spero che non ci sia la solita nuvola fantoziana che mi accompagna solitamente quando sono in vacanza. Ma queste sono cose che non interessano al nostro pubblico. Alessandro Spina ha realizzato questo brano elettropop che ci piace molto, e devo dire insomma che lui ha sempre fatto musica un po' così particolare, molto fuori dagli schemi. E a questo punto, come Saggi Profondi, a questo punto insomma ci avvisa della schiavitù che arriva tramite insomma i computer e l'informatica. Bello bello bello, mi piace anche questo pezzo che ci dice insomma stacchiamoci un po' anche da questi computer, e andiamo invece con la prossima, che poi è l'ultimo pezzo della prima parte. E arriva Marco Rotelli che ci presenta Ritornerai. Ritornerei indietro, ritornerei a 5 giorni fa. Ritornerei indietro, ritornerei al primo bacio. Ritornerei a quando tu eri qua. Impazzisco se non ritorni qua. Vorrei che potessi entrarmi nel cuore anche un solo secondo, per farti capire tutto quello che sento, e imparare ad amare e dimostrarlo ogni giorno. Adesso che ho capito che senza te io non so vivere. Ritornerei con un vestito nuovo e una promessa al dito. Ritornerei indietro, ritornerei per guardarti ancora fino all'infinito. Ritornerei come in un film d'amore. Ci pensi mai a quante cose ancora abbiamo da dire? Vorrei che potessi entrarmi nel cuore. per farti capire tutto quello che sento. Eccolo qui, si chiama Marco Rotelli, ritornerai, il suo nuovo singolo, uscito un po' a sorpresa, così, giusto per l'estate 2023, ci presenta questo pezzo che si intitola appunto Ritornerai. Di lui cosa posso raccontarvi? Che è un cantautore, tra l'altro ha studiato, era vicino così alla scuola di Mogol, da cui ha imparato tanto, e lui tra l'altro ha fatto un singolo che ha avuto un grande successo, si intitolava Dinosauro ed è entrato di prepotenza nella top 50 Year One fra i brani più trasmessi dalle radio in quell'anno. Tra l'altro su questo brano, se non sbaglio, uscì un film dove c'era un dinosauro, un bambino forse dislessico, qualcosa del genere, non ricordo però il titolo. Comunque Rotelli c'entrava. Quindi il 2021 esce il suo singolo Vorrei Volare in duetto con la vincitrice dell'ultima edizione di The Voice of Italy, ovvero sia Carmen Pierri. Ritornerai il suo nuovissimo singolo che ci è arrivato recentemente nella nostra redazione. Noi non potevamo non darlo, soprattutto perché ha una voce particolarissima. Detto ciò, piccolo break pubblicitario, rientriamo veramente fra pochissimo e abbiamo ancora molta carne al fuoco, anzi molti singoli al fuoco da farvi ascoltare. Io non so vivere. Buona estate da Easy Pop e da tutta Radio Città Fujiko. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti, regia del Bolognese Volante. Eccoci qua, seconda parte di Easy Pop insieme a Franco Paoletti e il Bolognese Volante. Siamo qui per parlare ancora di musica e ahimè, insomma, la prima mezz'ora è andata, spero in modo piacevole. La seconda altrettanto, perché abbiamo delle curiosità e dei graditissimi ritorni per la musica italiana e quindi insomma ci sono delle chicche che abbiamo e vogliamo presentarvi. Partirei immediatamente con J.A. Torna con un nuovo brano per l'estate che si intitola Mondello Sun. Voi sapete che Mondello è una spiaggia, se non sbaglio, di Palermo, molto gettonata. Si dica, fa questo omaggio a questa spiaggia Vips, molto molto così in voga appunto in quel di Palermo. E a proposito, salutiamo tutti quelli che ci ascoltano da Palermo e tutte le località di mare e di spiaggia. Ascoltiamo questa Mondello Sun. Wanna feel the sun in my eyes. Wanna catch the dawn, cause I can't stop now. Cause it makes me feel alive. Wanna feel the sun. We'll be right back. the dawn, cause I can't stop now. Cause it makes me feel alive. Siamo entrati alla grande nell'estate, in questa calda estate 2023, qui a Easy Pop e a Radio Città Fujiko, con questo cantante JXA o J per A, la sua Mondello Sun, vero Poletti? Stavamo disquisendo di come tutti i brani ormai siano in versione Eurovision Contest Song, durano mediamente 2 minuti e 50 al massimo. Specie se sono appunto, come dire, canzoni dance, vanno via così, oppure ci sono l'extension, come si dice? Non lo so, mi difenderà il mio professore d'inglese, perché lei bolognese, volante, lei non sa, ma io vado a ripetizione di inglese, e anche se ripeto, ma sono un po' gnucco, insomma, me lo dico da me, sono un po' duro, insomma. Bravo Paoletti! Grazie, grazie, grazie, niente applausi. Allora, dicevamo di graditissimi ritorni per l'estate. Lei non mi prende in giro, no, c'è tutta la redazione che sta ridendo di questa gag, però. Allora, dicevamo che dopo questo primo pezzo che ha aperto la seconda parte, abbiamo un graditissimo ritorno di una voce riconoscibilissima, di un personaggio amatissimo negli anni 90. Quindi sto parlando di Paolo Vallesi featuring Danti, ci presentano insieme questa cover che si intitola sempre la grande hit di Paolo Vallesi, così rivista. Cammino pugni in tasca nella notte che non va, un vento di burrasca sta spazzando la città. Non ci riesco mai, sì però sono coerente, faccio lo stesso errore da sempre. Ci riesco mai a rigare dritto, a restare zitto, a dire che va tutto bene quando cade a picco. Il tuo sorriso è finto, vorrei dirlo ma non ci riesco. E alla fine ci vuole coraggio, sono fermo lì al rigore di Baggio, tiro anche se so che sbaglio e ci ricado. Sempre io ti voglio, sempre cresce dentro di me la possessione. Sempre io ti sogno, sempre e ci ricado. Sempre dimmi perché. Riesco mai e non me ne frega niente, faccio lo stesso errore da sempre. Non ci riesco. Ucciderei la luna per sapere dove sei, è un cane la sfortuna dietro a tutti i giorni miei. Io da solo, io no, non ho spazio per nessuno, sono un'auto da Formula 1, sempre sullo stesso muro e boom, yeah. Sempre io ti voglio, sempre cresce dentro di me la possessione. Paolo Vallesi featuring Danti in questa sempre, in questa domenica 9 luglio, calda domenica, ma noi vi rinfreschiamo specialmente in questa seconda parte, tanta buona musica, vero Paoletti? Io l'ho sorpresa per lei, lo sa che ho portato il tè freddo e adesso ce lo consumiamo con calma, lo assaporerà, ho portato anche le cannucce, quindi lei deve essere contento. E a questo punto invece parlo di Paolo Vallesi, beh insomma è un pezzo della nostra musica italiana, correva il 1992 quando venne pubblicato per la prima volta questo singolo, sempre grandissimo successo, poi scritto a quattro mani con Beppe Dati se non sbaglio, e poi c'era anche Alessandro Baldinotti, cantata da Paolo stesso, che fu la canzone dell'anno e quella insomma che lo lanciò in ogni luogo. Tra l'altro c'è anche la versione spagnola se non sbaglio, sempre insomma fa parte della recente discografia di Paolo Vallesi, perché è uscito Io Noi, pubblicato in occasione dei 30 anni di carriera per Paolo Vallesi, che poi giocava anche nella nazionale cantanti se non sbaglio. Dentro questo album, insomma il progetto dei 30 anni, ci sono personaggi come Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Marco Masini e poi Danti stesso, Dolce Nera, Amara, e poi c'è un omaggio anche di Pieraccioni, lei l'avrebbe mai detto. Insomma, tutti insieme per ricordare Paolo Vallesi, i suoi tantissimi successi che ha regalato alla musica italiana, e ce ne saranno altri che dovrà regalarci. Bene, detto ciò, velocemente, dopo Paolo Vallesi e il suo remake di Sempre, ritorna un altro personaggio che avevamo lasciato un po' così in disparte. Ritorna con un nuovo singolo veramente bellissimo. Stiamo parlando di Supernova, a presentarcelo è il ritorno di Marco Carta. Baciano l'Adriatico, su questa mai baciato un anno fa. Ho riprenotato, ti dirò che è stato un caso, se ti incontro tanto non ci crederai. Prima sera dopo cena classico, anni 80 in piazza disco club. Nuoto tra la folla, tu mi noti, tutto crolla quando noto che c'è un altro accanto a te. Marco Carta, Supernova, mi sento un po' Super Classifica Show con questi ritmi. È vero, infatti è un po' anni 80, lo ha specificato lo stesso Marco Carta, che si è affidato a queste sonorità elettroniche anni 80 che accompagna questo pezzo Supernova, che voleva essere così la descrizione dell'ultimo atto del ciclo vitale di una stella, e questa fase, appunto l'esplosione finale, proprio ti dà quel quid giusto che voleva dare questo brano. Bravo, bravo, bravo Marco Carta, è ritornato un po' cambiato rispetto ai suoi esordi. Voglio ricordarvi che il suo tour proseguirà per tutto il sud, in questo caso toccherà Cagliari, Cosenza, Palermo, Macerata, poi ritornerà al nord, insomma c'è un po' avanti e indietro per l'Italia, però insomma il suo calendario è il baricentro del sud, perché lui è comunque del sud, ma appunto è in continuo aggiornamento il suo calendario, e quindi insomma voi sintonizzatevi su Fujiko, che ogni tanto noi vi diamo anche tutte le dritte giuste per ascoltare e anzi per seguire i vostri cantanti preferiti. Detto ciò, regia, velocemente, dopo il ritorno di Paolo Vallesi e di Marco Carta, abbiamo invece Alan che ci presenta Andiamo al mare. Alan e la sua Andiamo al mare. Beh, un brano azzeccatissimo per questo periodo, per una domenica calda come questa, Paoletti? Lo prendiamo di parola, Andiamo al mare, perché ci stiamo sciogliendo e devo dire che il ventilatore non è che così sia tanto d'aiuto, però adesso ho portato qua il tè freddo e quindi insomma ci rinfreschiamo. Allora, gli Alan, perché Alan è un duo, Alex Malaguti alla voce e Andrea Chirico, arrangiatore e chitarrista, non sono nuovi, appunto, sono dei turnisti, non sono nuovi alle così composizioni. Di loro si ha traccia nel 2021, quando uscì il loro primo singolo Tempi Bui, e poi a gennaio 2023 di loro ne abbiamo parlato perché è uscito il loro EP Nero, Storia Perfetta è il primo estratto. Noi a questo punto ci siamo ascoltati il brano dell'estate, appunto, degli Alan, con questo pezzo che ricorda anche gli U2 un po', ricorda un po' così, insomma, Simple Minds, insomma, questa musica che andava e che piaceva tanto. Vede che non si esce dagli anni 80. Detto ciò, velocemente, velocemente, corriamo e vi presento Nakai, che ci presenta Caliente. Nakai, con l'Icos in bocca, cammina distratta e cambia fidanzato come cambia iPhone. Ti bacia e ti tocca, con te si rilassa e lega i suoi capelli con l'elastico. Ma poi, se vuoi, l'amore nei corridoi, La musica nelle tempie, noi che lo facciamo solo a luci spenti. Ma poi, se vuoi, l'amore nei corridoi, le mani sul mio petto e lo sguardo assente. Lei che si avvicina col suo corpo caliente. Per trovarti ho consumato mille sole, sì, sotto la pioggia e il sole, con il freddo ed il sudore, baby. Se ti guardo è perché sento l'emozione, ed anche se farà rumore, voglio farlo questo errore con te. Di sicuro voglio farlo con te, te lo giuro, vado matto per te. Tu sei come un ritratto dipinto da Picasso, ma ancora non capisco perché. Di sicuro voglio farlo con te, te lo giuro, vado matto per te. Un cuore con un guasto, ma quello che è rimasto, deciso che lo affiderò a te. Bebe, qua c'è un problema, tu sei la sola che mi fotte il sistema. Non so come tu faccia, so solo che mi piace quando poi mi graffico l'unghia sulla schiena. Sei come il mare che si agita, è un incantesimo, sei magica. Ti fuori la lingua, non riesci a fare finta. Vorrei sperare senza seguire una logica. Quei ricordi che mi chiudevano in camera a fare respiri profondi. Pensieri che poi se ne andavano, ma sulla porta i segni dei cazzotti. In questo momento tu riesci a calmarmi e tutto il resto lo dimentico. Se un sogno davvero non vorrei svegliarmi, perché avrà un finale epico. Ma poi, se vuoi, l'amore nei corridoi, la musica nelle tempie, noi che lo facciamo solo a luci spente. Ma poi, se vuoi, l'amore nei corridoi, le mani sul mio petto e lo sguardo assente. Lei che si avvicina col suo corpo caliente. Per trovarti ho consumato mille sole, sì, sotto la pioggia e il sole, con il freddo ed il sudore, baby. Se ti guardo è perché sento l'emozione, ed anche se farà rumore, voglio farlo questo errore con te. Altro brano abbastanza travolgente ed estivo, questo propostoci da Nakai, Caliente. Ah, ma è tutto caldo qua oggi, eh? Un leitmotiv comune. Eh sì, diciamo che è così. A proposito, per quanto riguarda Nakai, questo giovanotto che ha nemmeno 20 anni, nel 2017 inizia bene, e lei sa, chi ben comincia ben va, a metà dell'opera. 2017 lo vede protagonista nell'importante musical La Fabbrica di Cioccolato, andato in scena al Teatro Quirino a Roma, e da lì in poi, insomma, aveva già iniziato a cantare e a imparare, insomma, a cantare con dei maestri personali. Di lui si accorge niente proprio di meno che Mogol, ha scritto dei pezzi insieme a Cheope, che è il figlio di Mogol, che è praticamente anche lui compone e appunto scrive per altri interpreti. E poi che c'è da dire? Che anche Mario Lavezzi, insomma, si accorge di lui e lo inserisce nella propria scuola. E che dire, che insomma, diciamo che di lui ci sono diversi addetti ai lavori che stanno puntando, basta solo trovare l'immagine giusta. Nel frattempo lui è nei social ed è molto quotato e molto virale, si dice così, vero regia? Ecco, e quindi vi inviterei a così soffermarsi su questo Nakai, che probabilmente darà delle sorprese in futuro. Io non dico altro perché insomma dovreste scoprire tutto il resto voi stessi, però vado a dirvi che ha anche partecipato a Sanremo Giovani, non è arrivato tra gli 8 finalisti, però insomma si è già messo in luce. Beh, io scommetterei su questo Nakai, visto che la voce c'è e anche, insomma, diciamo, è un bel personaggio. Sì, detto ciò, regia, andiamo velocemente con Bracco di Graci. Il sole nel cielo è una palla d'oro, ali di uccelli si alzano in volo, solo una nuvola dentro di te. Non piangere bimbo, non piangere, non piangere bimbo, non piangere. Il mare stasera sembra pezzi di specchi, schizzi di schiuma sopra i tuoi occhi, lavano lacrime, lasciano il sale. Non piangere bimbo, non piangere, non piangere bimbo, non piangere. Se tutto brucia dentro al tuo petto per troppi torti ricevuti, e mai restituiti. Ed il silenzio farà rumore per chi ha creduto che potesse essere in vendita al tuo cuore, in vendita al tuo amore per il successo. La luna stanotte si specchia nel mare e sembra che dialoghi con le lampade nell'aria bonaccia, ma poi la tua faccia. Non piangere bimbo, non piangere, non piangere bimbo, non piangere. I borghi e gli scorci di mille colori profumano gli alberi, boccioli e fiori, insetti nel vento, c'è un cane contento. Non piangere bimbo, non piangere, non piangere bimbo, non piangere. Se tutto brucia dentro al tuo petto. Bracco di Graci e la sua Non piangere. Beh, un bel brano Paoletti, ma adesso ce ne parlerà. Beh sì, è un bellissimo brano, devo dire. La voce nel corso degli anni non ne ha risentito per quanto riguarda Bracco di Graci, un graditissimo ritorno alla musica e alla musica italiana, e noi ne avevamo e sentivamo la mancanza e avevamo bisogno di cantautori così di grande spessore, un album di grande spessore che è preceduto da dei diversi singoli. Ce l'ha spiegato molto bene lui stesso, intenzione appunto di uscire sì con un album tutto intero, ma a breve. Prima sono tanti i singoli che vuole farci proporre, uno di questi è proprio Non piangere. Vi invito a visualizzare anche il video che è creato da Penelope Petrucciani, che è una graphic design d'animazione, dove praticamente succedono delle cose particolari. E bravo a Bracco di Graci con questo pezzo che sta andando fortissimo, specialmente qui a Fujiko piace tantissimo. Che dire, che andiamo ancora avanti, regia. Ah, ma siamo quasi agli sgoccioli, ahimè. Ultimo brano propostoci da Clay Bruni, qui siamo nella Sophisticated Music con Change. Bring on the change. definisce cittadina del mondo, in arte si chiama Claudia, è anche una vocal coach professionista e ha praticamente una sua scuola nel Vicentino. La sua passione è proprio, insomma, la musica blues soul, ve ne sarete accorti, una voce incredibile per questo personaggio che poi tra l'altro ha calcato anche il palco scenico di Sanremo New Talent 2022. E che dire ancora di lei, che insomma sta puntando molto su di lei e su questo modo così molto blues, noto molto AOR, molto soul, no? Molto britannico, no, comunque molto americano, no? Ricorda un po' Whitney Houston, queste voci un po' così sophisticated, appunto. E a questo punto, ahimè, siamo giunti, ahimè, alla fine di quest'oggi, vero? La vedo un po' distratta. Allora, finisce qui questa 27esima puntata di Easy Pop di oggi, domenica 9 luglio. Speriamo anche oggi di avervi fatto trascorrere un'oretta spensierata. Vi lasciamo alla programmazione di Radio Città Fujiko e noi vi diamo appuntamento a domenica prossima, stessa ora, ore 15, stesse frequenze 103 e 10. Lascio fare i saluti finali a Paoletti. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto prestato fino qui, mi raccomando, le frequenze sempre le stesse 103 e 100, e qualora vi foste persi qualcosa, ovviamente c'è sempre la nostra radio e il nostro sito dove cliccare e ascoltarci. Detto ciò, Franco Paoletti si congeda, vi auguro la buona settimana, bye bye e a presto. E bye bye anche dal bolognese Volante, bye bye. Avete ascoltato Easy Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko. お力だ鋼鉄神宮。